sto baccano? Che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Veltroni dice che quello non è il suo partito. Come? Si rifiuta di riconoscere la salma. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Sì, ho voluto anche stamattina, avrei potuto iniziare con tanti commenti che sentiremo, anche stamattina ho voluto iniziare con un ferocissimo vignettista Vauro che così, con queste parole, commenta con una scenetta davanti all'obitorio dove sarebbe appunto deceduto il Partito Democratico, commenta i fatti che hanno portato alla tempesta giudiziaria e politica sul principale partito di opposizione. E i titoli oggi dei quotidiani si sprecano, ve ne dico alcuni, insomma, sgominata la giunta di Napoli, le manette sulla città, questo è Libero, Libero riprende un famosissimo film sulle mani sulla città. E poi abbiamo la Repubblica, appalti a Napoli, travolta la giunta, arrestati assessori PD e imprenditori, indagati Bocchino e Lusetti. E ancora Il Giornale e Il Manifesto fanno paradossalmente un titolo simile, perché Il Giornale scrive il PD vede Napoli e poi muore, e Il Manifesto si ferma a dire al titolo vedi Napoli, dando per... E poi ancora Il Riformista scrive manette sciue sciue. L'Unità, l'oro di Napoli, un'altra tempesta sul PD, due assessori della giunta Iervolino arrestati, coinvolto Lusetti, affari con Romeo, sotto accusa il vice capogruppo PDL alla Camera, Bocchino, esponente di AN, dicono molti, sottolineano alcuni altri giornali, politici appalti, esplode il caso Napoli. Ecco, questo sono solo alcuni dei titoli, insomma, dei quotidiani di oggi, anzi mi pare di vedere sì alcuni più evocativi, altri più appalti sporchi, retata a Napoli, titolo alla stampa. Vi dicevo, tanti commenti, diversi per capire e anche diverse commenti a seconda dell'orientamento dei quotidiani. C'è una tentazione, per esempio, alcuni quotidiani di, in questo caso, di rivalutare il ruolo della magistratura, ruolo criticato fino a ieri, oggi rivalutato. Ed è su questo punto, per esempio, che insiste Il Riformista. Il Riformista affida al suo direttore, Antonio Politto, il commento: le procure stanno per sciogliere un altro partito, si legge nel titolo, con riferimento ovviamente alla Tangentopoli 1 degli anni 92-93. Non metto la mano sul fuoco per nessuno dei tanti indagati arrestati di questa seconda Tangentopoli, scrive Antonio Politto, direttore Riformista, ma se permettete non la metto neanche per i PM che hanno riaperto il Festival delle Retate, meno che mai se uno di loro si chiama Woodcock, tira una brutta aria, e non solo per il Partito Democratico. Se la politica italiana non tiene i nervi saldi, se tutti i politici non resistono alla tentazione di fare al nemico ciò che non vorrebbero fosse fatto a loro, rischia di finire come l'altra volta per la serie come ti sciolgo un partito. E quindi il riferimento è esplicito di Antonio Politto agli anni dei Tangentopoli, con quello che lui ha definisce lo scioglimento della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. E scrive ancora Politto: di fronte al vero e proprio assalto sincronizzato che alcune procure hanno lanciato contro le amministrazioni locali rette dal PD, si può infatti reagire in due modi. Il secondo è chiedersi che fine rischia di fare la Democrazia Italiana se il maggior partito di opposizione viene messo fuori legge. Il primo è gongolare, o perché il PD è l'avversario politico, o per gusto di maramaldeggiare su un corpo debole e gracile, o perché perfino dentro il PD può sembrare un buon modo di regolare i conti nel gruppo dirigente. Si vedono in giro molti esempi del primo tipo. La stampa di destra, scrive Politto, solitamente pignola in fatto di garantismo, stavolta è tutta dalla parte dei pubblici ministeri e li invita esplicitamente ad affondare il coltello. Berlusconi, che per molto meno avrebbe urlato urlato al golpe delle toghe rosse, se fosse toccata a lui, si gode lo spettacolo in religioso silenzio. Devo però aggiungere, dice Antonio Politto, e credo non ha torto, che una buona mano alla nuova deriva giustizialista, all'idea cioè di riformare la politica con le manette, l'ha data proprio il gruppo dirigente del PD, cioè del partito sotto scacco, che sembra vittima della sindrome di Stoccolma. Veltroni e i suoi hanno infatti sposato in pieno l'interpretazione della crisi del loro partito come effetto della questione morale. In Abruzzo sostengono di aver perso per quello, proprio come dice Antonio Di Pietro, e di fronte alle numerose inchieste rispondo che ne approfitteranno per decapitare i gruppi dirigenti locali e per sostituire con commissari e uomini di fiducia. Dichiarano apertamente voler procedere al rinnovamento del partito, cogliendo l'occasione offerta loro dalle procure. Da ora in poi solo dirigenti nati col PD dicono: questo non è il mio partito, dice Veltroni. Insomma, ecco, questa è una chiave di lettura molto forte, molto marcata di Antonio Politto sul Riformista. Andremo su altre interpretazioni, vedremo presto sulle prime pagine dei giornali. Voglio però segnalarvi sul Riformista, intanto vi ricordate, avevamo aperto la rassegna stampa ieri, le parole di Fini a proposito delle responsabilità della Chiesa, sul silenzio della Chiesa responsabile sulle leggi irresponsabili, anzi dice Fini, sulle leggi razziali. Oggi c'è grande polemica, c'è un comunicato ufficiale in cui si parla di opportunismo di Gianfranco Fini da parte delle più alte cariche della Chiesa, ma sul Riformista Gianfranco Fini viene difeso da Giampaolo Pansa. Fini non ha tutti i torti, anzi la madre superiore di un convento consegna alla polizia di Salò due vecchie signore ebree, un'altra suora fa arrestare il medico dei poveri e il fratello anche loro ebrei. La folla saccheggia la casa di una famiglia ebrea un attimo dopo la cattura. Sono appena tre casi fra i tanti, ma ci obbligano a pensare che non abbia torto Gianfranco Fini nella sua analisi cruda del diffuso antisemitismo di una parte degli italiani. È sufficiente grattare sotto la crosta della retorica per avere la prova che il leader di Alleanza Nazionale ha messo il dito nella piaga. Cito le sue parole: dovremmo ammettere che alla base della mancata reazione della gente alle leggi razziali ci furono elementi scomodi da riconoscere. Penso alla propensione al conformismo, penso a una possibile condivisione sotterranea e oscura, negata ma presente, dei pregiudizi e delle teorie anti-ebraiche. Ecco, questo viene citato da Giampaolo Pansa per dire, e poi citerà altri casi per dire, insomma, che c'è che Gianfranco Fini non ha poi tutti i torti a dire quelle cose che ha detto e che hanno creato tanto scalpore appunto nella Chiesa. Dicevo però, torniamo alla bufera, al ciclone che sta in qualche modo travolgendo, che potrebbe travolgere in modo pesante il Partito Democratico. Il contrappasso delle manette, scrive Mario Cervi invece sul Giornale. Di fronte al dilagare della nuova Tangentopoli riaffuora sicuramente in molti italiani onesti la tentazione di mettersi da cittadini, di affermare cioè con un atto solenne il proprio distacco non solo dalla palude ammorbante del malaffare, ma anche da istituzioni incapaci di modificarla. Si ha l'amara sensazione che il paese per bene viva da decenni in stato d'assedio. Dice: io non vedo attenuante che tenga nel crollo degli argini di moralità e di affidabilità pubblica, nella messa sotto accusa di personaggi che dagli elettori hanno avuto fiducia e che l'avrebbero ricambiata facendo strame della loro onorabilità. Ecco, come vedete qui è una linea diversa da quella di Politto sul Riformista, perché Mario Cervi difende l'operato questa volta della magistratura e non prende le distanze come in altri casi. Ho in mente il progetto secondo cui nessuno può essere ritenuto colpevole fino a sentenza passata in giudicato, il che avviene anni e anni dopo l'inizio di un'inchiesta. Conosco inoltre gli slanci esibizionistici e le disinvolture mediatiche da alcuni magistrati italiani, sia la presunzione di innocenza eccetera eccetera. Però, dice, insomma, dobbiamo tener conto anche di del fatto che cade appunto l'idea che il PD sia diverso in termini etici e morali dalla destra. Il sistema Romeo, padrone della città. Giuseppe D'Avanzo sul quotidiano La Repubblica non si sofferma tanto sui problemi grossi, enormi, che il Partito Democratico avrà, ma cerca di capire il sistema corruttivo che ha sconvolto la città e dunque anche gli amministratori. Allora, non c'è alcun interesse pubblico in questa storia nera, scrive D'Avanzo, come se fosse morto, come se nell'esercizio di pubbliche funzioni, di pubblici poteri, fosse deperita la più elementare nozione e distrutta anche soltanto l'ombra di servizio al bene collettivo. Nella rete di assessori, consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari, magistrati penali e amministrativi, tecnici comunali, professionisti, burocrati, ministeriali, in questo sistema apparecchiato da Alfredo Romeo esistono soltanto le cose nostre. E cita alcune telefonate, dobbiamo parlare delle cose nostre. Quella cosa nostra come sta andando? Ci interessano soltanto le cose nostre? Dacci uno sguardo a quella cosa nostra. Insomma, davvero, termine peraltro che poi indica ben, come tutti sappiamo, cosa nostra, un fenomeno ben più, dannoso, che è appunto la mafia. Alfredo Romeo si autodefinisce leader del mercato immobiliare, gestisce in appalto un patrimonio pubblico di 48 miliardi tra Napoli, Milano, Venezia, tiene d'occhio, si legge nelle carte, Roma e Firenze, ficca il naso a Bari. E Giuseppe D'Avanzo sul quotidiano La Repubblica fornisce anche una chiave di lettura delle differenze che ci sono rispetto ai fenomeni tradizionali e corruzione, perché scrive: è una scena che capovolge tutte le convinzioni sul morbo italico della corruzione. Il tableau napoletano racconta che non è più la politica a imporre il prezzo della corruzione all'impresa. È l'impresa che ingaggia la politica, la crea dal niente, la coccola, la indirizza, ne fissa gli obiettivi e i programmi, la corrompe, se ne appropria come fosse una cosa sua. I politici appaiono miserabili figurine nelle mani dell'imprenditore, lo assecondano in ogni ambizione e desiderio, sgomitano tra di loro come in ogni harem che si rispetti, esagerano i pubblici ministeri per diventare il favorito del sultano. Ecco, insomma, il sultano Roma e i suoi vassalli, questo è il servizio sul quotidiano della Repubblica, e che è di qualche interesse soprattutto perché ci fornisce una chiave di interpretazione, non sappiamo se sia quella giusta, ma sicuramente diversa dalla preponderanza, appunto, come avveniva spesso a Tangentopoli, della politica sugli affari. C'è anche una vignetta di Altan molto carina: dobbiamo essere trasparentissimi, dice uno dei due personaggi, come se non ci fossimo, risponde l'altro, e questo probabilmente è riferito al Partito Democratico. Il quotidiano La Repubblica ospita anche un intervento di Umberto Veronesi su Eluana e quanto è la reazione dei magistrati contro Sacconi, ma Veronesi non si occupa di Sacconi, dice: il caos regna sul caso Englaro, trasforma il dibattito in una guerra di parole. Eluana è viva o non è viva? I trattamenti sono cura o accanimento? L'esito della sua storia è una questione medica, giuridica o politica? Scrive ancora Veronesi: eppure ha parlato semplicemente e chiaramente Luana. Io non voglio esistere così, diceva, indicando il suo amico come in coma vegetativo, riferendosi inequivocabilmente a quel corpo che stava davanti a lei, a come lo vedeva o lo percepiva, provandone terrore. Non ci sono giochi di parole. Proprio quello ad ogni costo non voleva Eluana. E da lì dobbiamo ripartire per non perderci nella tragedia degli equivoci. Questo scrive Umberto Veronesi, che dice: dobbiamo riconcentrarci sul tema, la volontà di Eluana. Sono mesi che dalle pagine dei giornali, dagli schermi televisivi e computer ci ossessiona la figura di una donna nella dirompente bellezza dei suoi 20 anni. Eluana con il cappello nero, Eluana in tuta rossa fiammante sulla neve, Eluana che esce dalla doccia e ride. Eluana oggi non è quella della foto, è una donna di quasi 40 anni senza sorriso, senza espressione negli occhi, senza vita di relazione, senza coscienza, senza, senza controllo di un corpo che è ormai un involucro in disfacimento. La sua vita meravigliosa si è spenta per sempre 16 anni fa. Questa è la tesi di Umberto Veronesi, che ovviamente è favorevole a che si proceda nonostante i pronunciamenti di Sacconi. Ed è proprio sulla vicenda, su questa questione, che la stampa, l'intervento ultimo del ministro Sacconi, che si concentra il commento di Michele Ainis sul quotidiano La Stampa. I leghisti l'avranno presa male, anche se al momento non c'è traccia di reazioni ufficiali. E così i federalisti di cui trabocca la nostra scena pubblica, perché l'editto di Sacconi, l'atto con cui il ministro pretende di chiudere a Eluana le porte di ogni clinica pubblica o privata, è innanzitutto questo, un diktat per le regioni, nonché per le province di Trento e di Bolzano, e insomma la mascella volitiva dello Stato che detta legge agli enti decentrati. Ma come? Non siamo già immersi in mani e piedi in uno Stato federale? E questo è naturalmente il sarcasmo di Michele Ainis, che dice ancora, insomma, questo provvedimento, cioè quello di Sacconi, non vale nulla, è come una legge promulgata dal direttore delle poste. E allora a cosa serve? Semplice, serve a intimidire gli ospedali, a ricattarli minacciando di togliergli i quattrini, se non addirittura la licenza. E perché Sacconi, che è persona seria, ci ha messo in calce la sua firma? Risemplice, perché ha agito sotto dettatura, questa è la tesi di Michele Ainis sulla stampa. Non è il primo caso, non sarà purtroppo l'ultimo, è appena successo con i fondi per le scuole private, dopo la protesta a squarciagola della CEI. 120 milioni spariti e subito riapparsi con un emendamento in finanziaria. Succede con la pillola del giorno dopo, la cui vendita al pubblico viene rinviata di anno in anno con gran soddisfazione del Vaticano. Diciamolo, c'è un antistato dentro il nostro Stato. Le sue sentinelle, i suoi stessi generali sono ormai i generali dello Stato italiano. Ecco, questa è la tesi molto forte, molto anche polemica di Michele Ainis sul quotidiano La Stampa, che affida invece a Emanuele Macaluso, uno dei più vecchi, anziani, diciamo, ex del PC, che scrive ben oltre Veltroni e dice: bufera nel PD è il titolo che in questi ultimi giorni tutti i giornali hanno usato per segnalare fatti che sono catalogati come la questione morale che coinvolge pesantemente il partito di Veltroni. Su queste stesse colonne ho avuto occasione di dire che nel PD è aperta in forma ormai lacerante una questione politica che mette in discussione l'esistenza stessa di questo partito. Questa è la premessa con la quale Emanuele Macaluso apre la sua riflessione sul quotidiano La Stampa. Molti osservatori hanno richiamato le vicende che attraversano il PSI e il suo leader Craxi nella stagione di Tangentopoli, per sottolineare il carattere morale della crisi di una forza politica investita da inchieste giudiziarie. Ma proprio l'esperienza del PSI mi fa insistere sul nodo politico non sciolto. E quindi dice: non c'è una questione solo etica e giudiziaria, ma c'è un nodo politico ben molto molto forte. Questo sul quotidiano La Stampa. Ho trascurato forse di ricordarvi che molti giornali, per esempio ancora La Repubblica con Massimo Giannini, salutano le parole di Giorgio Napolitano. Dice Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica: il saluto di fine anno che Giorgio Napolitano ha rivolto alle alte cariche della Repubblica questa volta è molto più della rituale predica inutile al ceto politico, ed è qualcosa, dice Giannini, che attiene invece proprio a come dovrebbe essere affrontato e risolto il problema della giustizia, il tema della giustizia. Il capo dello Stato detta alla maggioranza e all'opposizione il suo decalogo per la riforma della giustizia. Per la prima volta non parla solo del metodo, ma entra anche nel merito. Indica puntigliosamente non solo i principi generali, ma anche i correttivi particolari da apportare alla giurisdizione e persino alla Costituzione. Ecco, questo, l'impressione che il lodo napolitano, nato e dettato dall'emergenza, possa rappresentare una svolta. votata. È un fatto che PDL e PD, egualmente colpiti da azione concentrica delle toghe, abbiano accolto l'intervento del Presidente della Repubblica con un giudizio quasi unanime. Condivido parola per parola la formula che accomuna tutti, da Angelino Alfani ad Anna Finocchiaro. È una grande opportunità. Una riforma bipartisan sulla giustizia potrebbe aprire una fase politica nuova nei rapporti tra i due schieramenti, ma è anche un grande rischio. Le tentazioni del Cavaliere nella sua guerra privata alle toghe sono imprevedibili e purtroppo inesauribili. Questo scrive la Repubblica a questo proposito. Il Corriere della Sera invece, tornando alla crisi del PD, intervista il coordinatore del PD stesso. I magistrati vanno difesi, ma devono essere molto esigenti con se stessi. Bettini: il partito dia a Veltroni poteri più forti. Quindi in questo caso ovviamente Bettini non pone il problema della stessa sopravvivenza, ma dice insomma bisogna invece dare poteri a Veltroni perché possa rinnovare veramente il partito. Ci troviamo di fronte a un terremoto, in questo momento richiamo me stesso e tutto il PD a non perdere il bando della politica e a continuare a ragionare. C'è un imponente susseguirsi di vicende giudiziarie che secondo me vanno affrontate evitando polveroni. Ogni caso ha una sua specificità e va analizzato a partire dai fatti concreti, ribadendo la massima fiducia nella magistratura ed esigendo sobrietà e rapidità nelle indagini e soprattutto, sono figlio di un avvocato penalista, rispettando le garanzie e i diritti degli imputati che fino alla sentenza sono presunti innocenti. Questo dice Bettini in un'intervista al Corriere della Sera, ma lo sa che non accade mai. Io so che i magistrati sono come i medici, hanno la vita delle persone nelle loro mani, vanno rispettati e difesi da attacchi ingiusti, ma debbono essere molto esigenti con se stessi. Ecco, adesso diamo la linea alle notizie sul traffico e poi torniamo. Le manette sulla città, sgominata la giunta di Napoli. Come vi dicevo, il quotidiano Libero però ruba, per così dire, un titolo di un famosissimo film, mi pare, di Francesco Rosi, Le mani sulla città, per titolare a proposito del terremoto che si è abbattuto sul Partito Democratico, oltre che ovviamente sulla giunta di centrosinistra di Napoli. Vittorio Feltri pone un'altra interpretazione, beh, intanto dice il nostro titolone di ieri era profetico, compagni nel fango, frana alla sinistra, ma come sempre la realtà ha superato la fantasia. A Napoli sta succedendo di tutto e ormai la notizia è nota: ammanettati due assessori e due ex assessori della Giunta Rossa a Iervolino e l'imprenditore factotum Alfredo Romeo, costruttore e affittacamere della Repubblica. Chiesto l'arresto dei parlamentari Italo Bocchino, PDL, e Renzo Lusetti, PD. E così l'amministrazione comunale è stata decapitata. Inoltre, per completare il panorama, si registra l'apertura di un'inchiesta giudiziaria a carico di tutti i cervelloni di Alitalia. Ecco, notizia che noi abbiamo trascurato e che ci aiuta a ricordare Vittorio Feltri. Dal 2000 al 2007, periodo durante il quale la compagnia aerea si avvitò precipitando verso un vergognoso fallimento, tra organici pletorici, zeppi di raccomandati politici, sindacalisti efferati, regolamenti improbabili e antieconomici. Ora, dice ancora Vittorio Feltri, ma voglio andare al punto. Perché si chiede Vittorio Feltri dopo un'analisi sulla crisi, dice la sensazione dopo il risultato elettorale abruzzese che provvederanno i cittadini a prosciugare il PD evitando con cura di votarlo. Dice, ma allora è troppo tardi per correre ai ripari? No, non è tardi. Paradossalmente i progressisti, ecco una chiave di lettura di Feltri molto originale, confidano in Berlusconi, nella sua riluttanza a divulgare le spiate telefoniche e a trasformare i magistrati in giustizieri della notte, in giacobini tagliatori di teste in piazza fra il giubilo popolare. Il premier memore di esperienze personali odia le esecuzioni pubbliche e ha orrore del sangue quanto di chi sotto la toga indossa i panni del boia. Il Cavaliere e il suo partito troveranno il modo affinché le inchieste in corso, benché riguardino in prevalenza i nemici, non si svolgano secondo il copione di Mani Pulite. Poi passeranno all'incasso, sicuri che il PD pagherà il prezzo della salvezza approvando con entusiasmo l'agognata riforma della giustizia. Ecco, questa si profila qui in tutto, dice Feltri, come uno scambio politico. Chissà se andrà così. Il quotidiano Il Libero invece intervista Casini. Un'idea per Berlusconi. Ci volevano un'altra volta morti e invece un'altra volta l'UDC ha dimostrato di esserci. Può ritenersi soddisfatto Pier Ferdinando Casini, ha tenuto anche nella gelata abruzzese quella che ha premiato l'ex alleato Silvio come il mai alleato di Pietro. Ha confermato il 5% e passa, soglia di sopravvivenza. Non è stato mica facile, dice Casini. Solo una settimana prima di presentare le liste avevamo saputo che tutti i nostri consiglieri regionali uscenti, si erano candidati nelle file del Popolo della Libertà. Evidentemente qualcuno le aveva chiesto, quel qualcuno evidentemente puntava a farci scomparire, invece abbiamo resistito e devo dire grazie ai dirigenti locali e al candidato De Laurentiis per l'ottimo lavoro. Il 5% in queste condizioni è stato un risultato ben al di là delle più rose aspettative. E dice ancora una proposta di Casini: con Silvio se candida Pisano in Sardegna. Il leader dell'UDC lancia una proposta a Berlusconi: contro Soru punti su Beppe Pisano e noi ci saremo. E a Veltroni le alleanze stanno insieme con le idee, non con la colla. Molli Tonino Di Pietro. Questa è l'idea di Casini su Libero. Adesso voglio rapidamente passare al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, come sempre avviene, voglio dire, cambia registro perché si deve occupare dei grandi fatti dell'economia e della finanza. Dollaro e petrolio ribassi record per la recessione. Sì, e qui è davvero, dice, il taglio a zero dei tassi interesse USA ha portato ieri il cambio euro-dollaro da 1,40 a 1,44, maggior balzo giornaliero della moneta unica su quella USA dalla sua nascita nel 1999. E il calo dei consumi causato dalla recessione ha spinto i prezzi del petrolio sotto i $40 al barile per la prima volta dal luglio 2004, nonostante il taglio produttivo di 2,2 milioni di barili al giorno deciso dall'OPEC. Questo scrive Davide Tabarelli: l'eccezionalità del momento per il mercato petrolifero è confermata dalla decisione OPEC di tagliare il tetto produttivo di 2,2 milioni di barili giorno. La riduzione più forte invece questa volta mai apportata da quando nel lontano 1982 venne introdotto il sistema delle quote. Quindi c'è un'analisi un anticipo di deflazione, dice Davide Tabarelli a proposito di quello che sta avvenendo. Ma io volevo segnalarvi anche a proposito del caso Madoff e sul Sole 24 Ore e una cosa clamorosa è che il caso Madoff travolge la SEC. Mary Shapiro verso la presidenza al posto di Cox, aperte due indagini, insomma il più grande organismo di controllo, la mitica SEC viene travolta, scrive Antonella Olivieri da New York. Troppi gli allarmi sottovalutati, se non ignorati del tutto. Alla fine il presidente della SEC, Christopher Cox, pressato dallo sdegno internazionale creato dal caso Madoff, un crack da 50 miliardi di dollari, ha aperto formalmente un'inchiesta interna per capire come mai la frode non fosse stata scoperta prima dall'autorità chiamata a vigilare sul mercato. Ma il tardivo mea culpa non gli salverà la poltrona se, come scrive Wall Street Journal, il presidente eletto Barack Obama ha già scelto chi gli succederà al vertice dell'autority. Si tratta di Mary Shapiro, ex commissario SEC e attuale CEO di FINRA, l'organo di autoregolamentazione degli operatori. Insomma, davvero un terremoto anche negli Stati Uniti col caso Madoff. Se è vero quello che scrive Wall Street Journal, ripreso da Antonello Olivieri sul Sole 24 Ore, per cui insomma davvero siamo al passaggio anche di consegne nella mitica SEC, dicevo, l'organismo di controllo che questa volta sembra non abbia controllato a sufficienza. Voglio concludere la rassegna con mi cade l'occhio sul Manifesto. Il Manifesto scrive in prima pagina: un nuovo direttore per il Manifesto. Non è che Gabriele Polo e Mariuccia Ciotto si sono dimessi, no, è che c'è una provocazione. Allora lo facciamo direttore Montazer Al-Zaidi, il giornalista indipendente iracheno arrestato domenica scorsa a Baghdad dopo che aveva espresso al presidente uscente degli Stati Uniti tutto il suo sdegno. Sarà direttore onorario per un giorno domani, in occasione del numero speciale del Manifesto a 50 euro che troverete in edicola e senza accollargli un centesimo dei nostri debiti. Questo scrive ironicamente il Manifesto in prima pagina. E con questa segnalazione io ho concluso il mio tempo, quindi di nuovo vi saluto e vi do appuntamento a domattina.